cosa stai facendo per radio? Non si capisce niente. Come non si capisce niente? Amplificato. Amplificato, c'è il microfono normale, sai che sta col processore. Ora, ora, ora. Così come, mi ascolti bene? A voglia. C'è il processore inserito, 140. No, sto usando il microfono normale perché lo stavo controllando, che a volte usciva, a volte non usciva. E c'era un filo che stava toccando quando era chiuso, capito? Già va bene. È importante questo, va bene, perché quando poi lo vendi devi dare le cose a posto. Mi sono ricordato che c'era questo difetto in questo microfono. Questo è quello praticamente del keyboard veicolare che c'ho io, VHF, me lo manda. Veramente gli guido non aveva microfono. Ogni volta che vendono le radio, cazzo, vendono il microfono. Beh, già sto uscendo, dai. Già va bene. E noi fariduci. Sei sparito? Sì, già sto fischiettando un po', credo che mi sia sulla scagliola. Stai provando a vedere se fischiava, ma già non fischia. Già va bene, grappa. Però sei tutto tipo mezzo fuori frequenza, amico. Sì, strappato sarà, così com'è. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, devo parlare piano. Infatti, devi parlare piano, sennò kappa. È normale, c'è una strappa, questi microfoni sono fatti uscire, poi questa è quella mia, capito? È un po' tirata, ma era giusto. Va bene, era giusto per vedere se funzionava il microfono, niente di particolare. Prova in diretta a attaccare il processore, vedete? Guarda, così è senza processore, 1, 2, 3, 4, e così è col processore attaccato, guarda. No, adesso va bene, tanto col processore attaccato basta che non urli. No, ve ne sa cosa, non mi piace, ma mi conformare, sì, che attacco 60. Che era giusto per metterlo a posto, mi capito? Non so mai che poi debba dare quella che c'ha Vittorio, ed è senza microfono. Anche quella c'è il microfono, capito? Cazzo, non ci ho compreso se ci rimagna il microfono. Gusci Danilo, venuto la radio senza microfono. Io l'ho comprata senza microfono. L'altra che ha giubilato, quella che è in riparazione, è senza microfono. Ma ci rimagna il microfono. Vediamo questo invece se va meglio, lui, il microfono. Questo è l'altro della Kenwood. Ah, va bene lui. Bucca. E te bava. Vabbè, Claudio. Bene, siamo finiti. Come di bella. Allora, come sta andando questo microfono normale del K? Sì, bene, Cla. Aspetta 2 secondi, che sono uscito dalla doccia, ci metto su giamo un attimo. Ehi, va bene, già sono qua. Ola. Sono arrivato al punto, ho sentito di Vittorio, non so. Sta giunto di tutti di radio, vi faccio, sono senza microfono. Meno male ne avevo altri due io. Ho già compreso. E ci si è riso, chieve. Cazzo, male ci rimane il microfono. Quello che stavo usando del 701, del VHF, quello veicolare. E l'altro è... ricordo. Forse era il 4.30, boh, non lo so. Ma il 140, tutte e due senza microfono. Cioè le 2043. Allora. E sai cosa fanno? Quando vendono la radio, la vendono senza microfono, il microfono ce lo vendono a parte 50 euro, capito? Sì, ma sai che l'ho visto in Cina, no? Non è Kenwood, però scrivono per Kenwood MC43, c'è scritto il microfono ed è spiccicato, uguale. E c'è scritto anche MC43 e lo danno per il Kenwood, è uguale al microfono, però non c'è la scritta Kenwood. Sì, bah, anche la scritta da rimaniare. E quanto costa? Sicuramente la metà, no? Ehi, aspetta, te lo dico. Se dice originale la giornata di Subuglione, di Costa, che Mi avevi detto che l'avevi dato un microfono, che non era l'originale, però. No, l'originale gli ho dato, cazzo, l'ho dato l'originale. MC43 gli ho dato, ok. Potevo dargli quello che avevo adattato. E invece era già 2 MC43, papà, bella figura, capito? Lei è tutto fermo, infatti ha già provato a fare un pagamento e non me lo fa fare. C'è scritto finché non c'è il saldo di quelli là non si può fare altri pagamenti, cioè altri acquisti in pratica. Ma scusa, non te l'avevi mai detto, te l'avevi fatta nuova? La posta B, però con la carta vecchia, tramite con quella carta vecchia non posso più fare niente. Oh, ma quel gardena che un buccio varia, ma dimmi tu. Lui insisteva che il VFO non funzionava, che girava ma non cambiavano le frequenze, mi pare. Infatti io quando ho fatto, ti ho mandato le fotografie, che prima ti ho mandato dai V e poi ti ho mandato dai nu, ti ho fatto così come te Mago Zurlì, ma per favore, dai. No, vabbè, però cosa c'entra? Non abbiamo un video, tu non, a me un video non me l'hai mandato dove stai girando per dire il VFO e stai cambiando la frequenza, eccetera, eccetera. La cosa si può fare benissimo anche dai canali, credo, dal microfono. Infatti io ho cambiato, ho fatto due foto, una in V e una in U. Cosa lo giambo, a mano lo già faccio, le magie. È chiaro che devo muovere il VFO per cambiare dalle V alle 1. Vabbè dai, c'è un per, non mi puoi incazzare di nuovo. Allora aspetta che entro sul sito The China. E così a titolo, così lo sappiamo quanto costa. Mai che decido di prenderlo uno, capito? Stiamo andando bene, sì? Sì. Ma sono col baracchino, là. Chi è che vuole entrare, va? Chi è che vuole entrare? C'è mezz'ora e ci fa vedendi? Dimmi, cosa c'è? Cazzo, fa vedendi, uno è andato all'altro e buono entra. Ehi, la torre l'ha una battuta. Vabbè, tu che sei ancora in giro, non hai fatto Bonti oggi? Insomma adesso che è finito ti stanno proprio ammazzando, fortuna. Ciao, buongiorno, buonasera e buon anno, ci siamo sentiti. No, è finito, no, adesso mi trovo, no, adesso ho la linea della Barilla. Kappa, ehi vabbè dai. Ancora un po' di sacrificio, fortuna, poi ci abbiamo in culo. Ehi, Luca Flipper c'è, sta guardando una cosa al computer. Buonasera. Ciao, buonasera. Sono entrato solo a salutarvi, là. Poi sono impegnato, lo sa. Ancora non te l'hai mandata? No, non c'è. Ehi, va bene, dai. Goditela. Poi già ci sentiamo con calma, intanto. Parisio vive nell'aria. Ti sentite incazzato, cosa è successo? No, niente, ho detto che quando compri il radio, no? Ti ho comprato un 140, un altro praticamente, però lo devo dare, l'ho comprato ma per darlo. Cazzo, sempre senza microfono li mandano, capito? Allora tocca comprare un microfono da Palmo a parte, perché vendono la radio, no? 300 euro, perché 350 non la possono vendere. E poi ci vendono il microfono a 50 euro, capito? No, l'originale è quello della Vandali, se poi RBC60 è un conto, quello che non ha fatto, però l'originale è quello della Vandali con l'apparecchio. L'originale, il carretto della cosa e tutto quanto, no? Come me l'era tutto a me, cioè non è che mi avrebbe detto a microfono. E invece ce l'hai mandato senza microfono, capito? Ah, sta guardando Luca, vabbè, quanto costa. Brecco, ciao Gianni, Claudio, Luca, poi chi c'è, Fortunato, l'ho acceso due minuti fa. Sì, ciao, ma io sono stato solo a salutarvi, rimango in quel Rix. Ciao Fortunato, mi hai sentito, dai, rientro. Ehi a Gianni, auguroni, ci siamo sentiti. Auguri anche a te, dai, qua. Anche a Roberto che non l'avevo sentito, e purtroppo questo qui io sono un po' occupato, non sta entrando molto perché ho gente a casa e quindi sta entrando poco in radio. Ehi, auguroni a tutti, a quelli che non li ho fatte. Ehi, ciao Roberto, ciao anche a te, Fortuna, sei già arrivato? No, ancora no, motorizzazione da parte mia. Ciao Roberto, auguri anche a te. Ehi, ciao Fortuna. C'era anche Luca, Pippa. Luca, ci sei ancora? Ehi, un attimo, sto mandando delle foto a Claudio. Ehi, cosa è successo qua? Ho sentito qualche problemino? Tanto d'ora, lascia di sbocco curiosi. Non me ne dire, dai, futtidine, non succede niente. Ho detto che quando vendono le radio, le vendono sempre senza microfoni e setti. Ehi, oltretutto garraggi. Senza poi dire appunto tutto il resto. E vabbè, dunque, adesso lo compriamo, così siamo a posto. Infatti quando vendo io devo dare pure un ricatto, sono l'unico forse che ha venduto un 440 con la scatola originale, che l'altro non ti date nemmeno un microfono. Buonasera a tutti, là. Ciao Massimi, Ehi, non me l'avevi capito, ero io, Oh, non l'avevo capito. Stavo provando il sistema di questo microfono, sta uscendo bene, come? È sempre il solito difetto, io quello là l'ho messo a posto. Era praticamente strozzato il cavetto dove chiude il microfono. L'ho messo in dentro e all'interno, anziché metterle la controbattuta quella in ferro, gli ho messo una fascetta in modo che non vada in furia. Adesso è perfetto, ma lo stavo provando come fa con Luca. Adesso sto usando il Midland, il 574 con l'MB più 4. Scariche e poi a volte non esci. Aspetta, mi va. Sono tanto tra la ruota, non so chi c'è, sono acceso proprio in questo momento. Ciao, Silvia, hai sentito, dato a voi. Ma Italia, spiegami un attimo. Attacca il serpente col Turner, Massimiliano. È arrivata quella cosa, Massi. Cos'è, caro già? Ho detto, mi è arrivata quella cosa, già piazzata e tu. Lo so, me l'avevi mandata la foto, va. Sì, no, il retro, lo spinotto. È positivo, va bene, questa per me va. Sì, capace, sta sempre col K. Robè, non parli più. State parlando voi, lo sto lasciando parlare a voi. Ciao Massimiliano, ben sentito. Ciao Robè, non sapevo neanche che c'eri, boh, io ho salutato lui in generale. Non sapevo neanche chi c'è. Che c'è in ruota? Io non lo so chi c'è, boh, fatemi partecipare. Ciao io, Gianni che è entrato a salutare, Roberto, Luca Manicomio, che ha la faccia doccia, e Luca Flipper che mi sta mandando delle foto. Dei microfoni da Parma, va. Ah, ok, va bene allora. Ok, saluto Luca, Roberto, Gianni, a te e chiunque fosse in ascolto, va. E mi hai sentito Massimiliano. Ok, vediamo se Luca ha finito, se no riprendi tu qua. Sì, Luca, come va a finire? Sta andando bene questo microfono, sì. No, io ti ascolto benissimo, perfetto. MB più 4 con 574 il modello là, della Midland, quello basso. Ti stai uscendo un po' bene, Massimiliano. Allora già. Meglio no, ma molto molto simile al K. È positivo, là. Questo è il Turner più 3 col Cobra. Va no, l'ascolto bene. L'altra radio poco fa, ne avevi un'altra poco fa di radio. Sì, l'altra c'ho l'S9, ma ne stavo cambiando il microfono. Aspetta, faccio ascoltare. Quella prima era un po' troppo, come si chiama, citofonica. Questa è migliore. Guarda un po' adesso, 1, 2, 3, prova. È un po' strozzata, Massimiliano. Troppo sembra che stai parlando con la bocca attaccata al microfono. Ah, beh, vabbè, qua è il tipo del microfono. Questo è un'altra radio, però. No, meglio quell'altra di prima. Sì, attacchiamo quella, non problema. Uno o l'altro. Ti ascolto, sì, comprensibile, però non è naturale la voce, l'altra è più naturale. Va bene, va, rimetto questa, è a posto. Non c'è problema. Ok, stavo dicendo, quindi senza microfono te l'hai mandata, grazie. Non mettere il dito nella piaga. Cosa hai detto, già? Ho detto non mettere il dito nella piaga. Che già si trova un microfono, dai, già l'aiutiamo, dai. Facciamo una colletta, ricompariamo il microfono a Claudio. Che tu bisogno di lui, allora? Sto scherzando, se vuoi noi bisogna compare già dentro dei microfoni. Vediamo un po' cosa possiamo fare, dai, già ne lo togliamo dagli impicci. Vabbè, ma comunque da fastidio, dai. Da fastidio perché la fabbrica te lo devo mandare completo, di capo e di tutto. Quando lo compro deve essere così, 300 euro deve essere tutto completo. Già lo so, però c'è gente furbacchiona che magari il microfono se lo vende da parte, ti fa pagare magari 20 euro di meno alla radio e poi il microfono se lo vende 50 euro. E anche c'ho Fuibi. No, vabbè, ma non è un problema, Gianni, ne ho altre due io di microfoni da palmo della Tempo, non è un problema, non mi interessa. Però sto parlando perché sono furbi, capito? Sono furbi perché l'M53 costa 46 euro, più trasporto. E quindi ce lo vendi nei 50 euro, capito? Già te ne busco uno io, Clara, non ti preoccupare. Sono degli stronzi. Vabbè, tu non mi interessa. L'importante è che sia funzionante la radio, che sia a posto. Oia. Vabbè, Massimiliano. E qua siamo, mi stavo provando a sistemare questo microfono. E invece, secondo me, il problema è la capsula. Oh, quello là che sei tu non aveva niente. Infatti muovevo il filo, però dove c'è il microfono, dove c'è l'attacco per la radio, riprendeva. Allora dito, allora non avevo problema. L'ho appena messo in dentro, più in dentro, strozzato dall'interno, richiuso e no, ed è perfetto, capito? Sicuramente stava toccando da qualche parte, quindi anche quello è a posto. Oltre non ci sei andato al Ghero a fare quel lavoro? No, claro, negativo. Intanto ho visto la giornata, è un casino. Poi ho sentito mia sorella che abita lì e al Ghero stava piovendo, quindi non ci sono andato. Massimiliano, sto provando l'Intec, come va? Cosa hai fatto? Sto provando l'Intec, la base, dai, come va? Buona. Questa è un po' più acuta del Galaxy, però va bene. Cava, dai. Sì, vabbè, già ogni tanto l'attacco per farla scaldare. E che non posso trattenermi tanto, dai. C'ho gente a casa, sono andato a salutare, dai. Ah, ok, oggi ho macho family. Curioso. No, vabbè, dai. Viro già, macho e family. È la mia compagna. Allora a posto. Pensavo che era giusto. Non è che già gli è passato la trasponda. No, sempre. Siamo sempre arzillo io. Meglio così, dai. Vai, Roberto. Butta abbastanza come si chiama? Grande fratello gay. Tra poco lo fate, sicuramente. Tra un po' lo fanno, grande fratello gay, non grande fratello VIP. Avanti, Roberto. E tu aperto questa mattina. Certo, cazzo, c'è anche roba da consegnare, anche giovedì lo stesso, c'è un lavoro grosso da finire, speriamo di riuscire a finire in settimana. Lui non apre domani che è la Befana. Cos'è già? Dico, domani non apri che è la Befana. No, la Befana è rosso, è perfetta per tutti. Forse mi apriranno le pasticcerie, credo. Domani è tutto aperto, tutto. E noi non la festeggiavamo, quando io lavoravo a Granai non la festeggiavamo, la Befana c'erano i turni. Dillo a me. E molte volte mi è successo anche a me, sia la Befana che un anno mi sono fatto la Befana e l'Immacolata, tutti e due. E anche io, perché capitavano entro settimanale, capito? Io il riposo ce l'avevo o il sabato o la domenica. E quindi quando il festivo era entro settimanale dovevamo lavorare. Vabbè, e tu quando rientri, Massimiliano? Dipende dal tempo, qua. Speriamo che abbia finito. detto di buttare acqua, se no penso che comunque rientreremo. Boh, adesso vediamo se domani mi avvisano e devo per forza rientrare il 7, o se no rientreremo l'11 credo. È un casino, sta sempre diluviando, noi andiamo, è tutto fango, devi entrare con i camion nei varchi per portare il materiale, portano fuori il fango, quindi diventa un macello, va. Ma dove siete? A Sassari Ulpia sempre, Massimilia? Sì, sì, sempre Sassari Ulpia, abbiamo consegnato prima di Natale l'8C e l'8C. L'ho fatta quando sono andata a prendere lì, l'ho vista che c'era una parte aperta nuova. Bella, Guarda qua, io penso che una volta che quella strada è tutta finita, fai più in fretta arrivare a Ulpia che andare a Ghero. Quello senza ombra di dubbio. A proposito di strada, aspetta che ti mando un messaggio, che poco fa mi ha chiamato quella persona, aspetta un attimo, riprendi Roberto. Allora, vediamo se c'è Luca Flippers, è rientrato. Luca, ci sei? Ti è rimasto qua. Luca Del Monte dice c'era, però io non l'ho sentito. Avanti Luca. Lì c'è, stava facendo una doccia. Sono rimasto io, Massimiliano, Claudio, siamo, già ci siamo. Qua ti stavo dicendo, dato quello al telefono, il priore al telefono, quindi non c'è problema. Già è distratta. C'era fortunato, ma lei adesso è già arrivato al deposito. Ma scoro, beh, con questo apparato come ti sta arrivando di segnale? Ora. Forte, 9, quasi 9.30. Cavagala. Da spingere. Ok, cosa volevo dire? Facciamo un attimino di bianco se c'è qualcuno che vuole rientrare, se no riprendi tu già. C'è Massimiliano anche. Niente, cosa riprendo? Io sono un po' di tempo che mi sono assentato. Periodo di Natale, tutte le feste, cose, mi sono assentato, non so più dettagli. Anzi, sono entrato una volta per fare gli auguri, chi c'era, e poi non ci sono più entrato perché niente, c'è gente a casa e quindi non mi va a rilasciarla sola. Ok, no, Massimiliano non era con Claudio, stavano mandando un messaggio. Ok, avanti chi chiama Gianni. Adesso ti ho sentito, Antu, ciao, buonasera, con cosa sei? Col portatile? Scappa, non so se gli altri ti ascolta, io già ti ascolto, ma insomma già ti ascolto. Tu mi ascolti bene? Scusate se mi avete cercato, stavo rispondendo a un messaggio. Sì. Tu ne ho ascoltate in portatile con il furgoncino delle bombole, dai. E col portatile, dai. Vabbè. No, io non lo sento, ciao Lu. Buonasera, Fred Alvinè, ciao Massimiliano, ciao Gianni, Fred Alvinè. Ciao, auguri per domani, Per domani, io non li faccio domani gli anni, io li faccio il 20 ottobre. Andò da Maride. Ma Befana, adesso si compie, ma non è che ha buon compleanno. No, la Befana si ferma i Befani, non sono masci. No, non dire cavolate. Non sono maschi le Befane, ma sono donne. Befano, sì, uguale, avanti, chi c'è? Claudio. Ti arrivo con questa radio, bene ti arrivo lì, sì. A me? No, a Roberto stavo chiedendo, ciao Luca. Sì che mi arrivi bene Massimiliano, forte. Ciao Luca, no, ti ho chiamato prima, dice che stai facendo la doccia. Ti arrivi bene, 9.15, sì. Chi era quello che stava modulando con te, Antonio? Non arriva qua, ma dov'è la teloccia? Dov'è Antonio, la teloccia? Io non lo sentivo, forse l'altro giorno col portatile dentro il motocarro, col portatile, probabilmente è una zona vicino a loro, perché da casa sua col portatile l'ascoltavo io. Qua non arriva, io sono la teloccia, qua non arriva. Io la teloccia come ti arrivo, Lu? Tu sei, dove sei già? A Domo. Tu sei sullo 0, del più 30. Cazzo. Sto usando l'Intec, il 497, adesso era un po' di tempo che non lo usavo, l'ho voluto attaccare, dopo attaccherò anche, se c'ho il tempo, l'altro. Vediamo un pochettino, là, come va. E si è agganciato già. Diciamo sì, tra le tre volte, là. Sì, con questo sì, perché c'è con tre vatte, Claudio. Ah, per quello. Vabbè, c'è più alto del solito, là. Chi è Beghiere? È un alimentatore grosso, devo cercare, Claudio. Perché questo qui fa tic-tic-tic-tic-tic-tic. Ed è da 55 ampere, questo qua. Già, siete uno dei cinesi, come quello che c'ho io. Si fa la modifica, come ho fatto io, e devo sapere. Guarda, va benissimo, non bello, benissimo. Ma da quanti ampere è? 50. E dove l'hai beccato quello? Io non li ho trovati, sono andato e c'erano da 30 al massimo. Tu, e beh, già l'ho comprato. Se vuoi ti mando il link, sotto modificato, gli ho messo le banane, l'attacco delle bananine dietro, gli ho passato il cavo dentro, e poi i fili sono dentro, non fuori come fanno gli altri, vabbè ognuno poi fa come crede. E poi gli ho messo il tastino accendi e spegni, la ventola, la posso disinserire, poi c'è il tastino per accendere e spegnerlo, capito? Io c'è tutto, ventola, tastino, c'è tutto quanto. È solo l'alimentatore che mi manca, perché questo qua forse si bosa, è 55 ampere ma si bosa, non lo so perché, è una cosa strana. Si siede perché non è diretto, se glielo metti diretto non si siede. Tu lo sai cosa devi fare già, lasci solo la signorina attaccata lì e nella roglia te la attacchi in un altro alimentatore a fare questa prova. E così è fatto, così è fatto. Lì c'erano attaccate solo le luci dello strumento del rosmetro watt, metto lì e basta, non c'è altro. Come assorbimento adesso c'ha come ampere ne ha 19 adesso. Ma 655 ampere ne sto usando solo 19, c'è qualche problema allora. Quando ti fa quello tic tic tic vuol dire che non ve la vado l'alimentatore. Infatti lo stavo dicendo io, se io ho il 50 ampere della Proxer, l'attacco anche io lineare, ci attacco il B300, ci attacco il RM Italy, non si boccia, manco a misericordia, sono 50 ampere già, vuol dire che quell'alimentatore c'ha qualcosa che è in perdita, non sta dando proprio quell'amperaggio giusto. 19 ampere di assorbimento contro 50 o già che siano. Se mi parlavi sta assorbendo 40 ampere, allora va bene, ma neanche 20 ampere, cazzo, vedi solo altre 30 ampere da consumare, a voglia. 60-55 NFA della Proxel, 60-55, vai e controllalo quante ampere. Ma la discorso è che se è un 55 ampere, si siede con 19 di assorbimento, c'è qualcosa di grosso, c'è di grave dentro. Prova ad aprirlo, magari c'è qualche condensatore esploso, controlla già. Anni, ce l'ho anche io, ti ho detto l'altro giorno, 60-55/NF, capito? E io ne attacco due di lineari, attacco l'RM Italy e il B300 e non succede assolutamente niente, stiamo provvedendo i 50 ampere, capito? Tu con 20 ti balla e vuol dire c'è qualche condensatore che è partito e non ti sta dando l'amperaggio giusto. Gianni, e chi lo sa, fai una prova, Gianni. Sì, ah. Lo apri che lo strumento c'ha questo alimentatore? Sì che c'ha lo strumento. 19 ampere sta assorbendo adesso. Vabbè, c'ho 20, 90, là. E appunto, è normale, tu devi fare sempre una legge di Ohm. Ma tu puoi, no, io sto parlando, devi vedere se c'è una caduta di tensione. Per dire, anziché darti 13,8, vedi se si abbassa come tensione. Quanto scende la tensione quando è in carico? No, la tensione è sempre giusta qua, sempre giusta. Però se attacco, adesso provo ad attaccare il Galaxy, perché è attaccato questo e va bene, l'altro lo fa tiki tiki tiki. Gianni, qualcosa che non va, perché se tu hai detto che c'hai 90-100, 19 ampere sono troppi, ok, perché la radio fa che ti assorba 3 ampere, che secondo me neanche li assorbe 3 ampere. Stiamo parlando di 19 ampere sono intorno ai 300 watt, non sono 100, capito? Lì c'è qualcosa che non mi quadra, un 747 assorbe 10 ampere e sono 100 watt, aggiungere 3 della radio, 4, che sono 15 ampere, avanti, ma ne sta assorbendo 19, lì va. Ma infatti non mi guarda neanche a me, 20 ampere sono troppi per 100 watt già. Io quando metto il capo a 100 watt ne assorbe 12, 13, massimo 14, 19 sono tanti. Con 19 classe intorno ai 250 watt più o meno. Più o meno sì. Avanti per conto. 9 più 10, sì. Provo a dire quante. No, la radio è buona, amplificata. No, ti ascolto bene, forte la radio. Ne ho sentito di meglio, ma funziona più che bene. Dai, avanti gli altri, quelli più lontani per ascoltare. Vediamo Massimiliano come ti ascolta. Io ciao, chiamo Ruggi, ma chiamo Ruggito, ho sbagliato, scusa. allora io ti ascolto, Santiago 9, radio 5, perfetta. 9 e 5 sei qua, che ho da Ruggito, 9 e 5, andave, KK, sì sì, 9 e 15, già va bene, dai, ma in effetti ho preso che sia proprio l'entrata, Claudio, perché con questo apparato non me lo sta facendo, dai. Vabbè, dai, io vi saluto tutti cordialmente, vi lascio, vi saluto nuovamente, continuo con il SEO, con il esecutivo per me, dai, ci sentiamo. Li prendo io, ciao Gian e buon proseguo, dai, vai, facciamo un'idea. Ciao Gian, buona serata e buon divertimento, ciao ciao, le plus, vai Claudio. C'è anche Claudio, torre di controllo, avanti Claudio. Ciao Gianni, dai, cordialità, saluti, ci sentiamo alle prossime. Io sto andando con Trefatto, Chiodo, buonasera, 9.10 segnale per te, io sto andando con Trefatti, adesso ho cambiato in OIT 294, comunque stiamo andando bene, 9 più 10 radio 5. Io sto usando oltre watt, ti ho detto Roberto, non so come sta usando 20, 30, non so, 10. Io 3 watt, va bene così, non ho nessun supplemento con questa radio perché non ne voglio mettere, non mi interessa, tanto le uso poco e quel poco che le uso voglio usarle normali. Avanti Massimiliano. Sì, sì, positivo, e anche io sono con la potenza bassa di questa radio, mi sembra che questa, ma nominalmente se c'ha 3 o 4 watt di portante bianca e una settantina modulati, 80, 100, boh, nominalmente. No, questo va bene, vai bene Massimiliano, stai andando benissimo alla grande. Ah, Massimiliano. Ho messo la radio in vendita in quel gruppo Scavendo CB, adesso non mi ricordo esattamente, e un tipo ha commentato che ha detto che sono esagerato perché la sto pagando 200 euro. Ma se la presi, mettila nel gruppo mio anche, guarda quello mercatino quattro muri, guardate uno per voi, mettila lì anche. Ma che, chi c'è Robert? Ah Robert, chi c'è? Mi sembra Antonio Bombo, Antonio tu sei? Sì, sotto casa mia. Infatti ho visto il segnale 9.40 ieri. Tu non lo intendo e tu lo intendi. Neanche io lo sento. Ma sei sotto casa di Roberto? Qua deve arrivare. Ah tu, non sei sotto casa mia, dai, sei sotto casa mia, arrivi 9.60. Sarai a che zona via Milano? Io non lo sento. Qua adesso è sceso a 8 il segnale, ma non è sotto casa mia, non credo, comunque sta andando sotto casa tua, e a vedere se ti intendi. Com'è il gruppo Massimiliano? Guarda, c'è scritto mercatino 4 muri. Esce un bel bene con la radio Massimiliano. A quanto ce l'hai il tarnet? Poco meno della metà, qua. 1, 2, a 3 ce l'ho, là, più o meno. Poco meno della metà, là. Va bene, bella corposa, modulazione, bella, bella, bella. Una trentina di centimetri dalla bocca, là. Allora, aspetta che provo a aumentare la potenza, come tirano, fammilo. Guarda adesso, Cla, ha cambiato la radio o è rimasto invariato? No, io non ho notato nessuna variazione. Tu, Robè, segnale ho visto che ti è stata all'impicco. E tu, Robè? Ma Massimiliano, la voce è meglio, ci credi? Fai di nuovo il passaggio. Secondo me è più bella la... attaccata. Non sono attaccato, sono invato dalla radio questa. Io non sono attaccato niente. Questo è un passaggio con i watt al massimo e questa qui sono i watt con al minimo, è sempre te l'ho fatto in diretta. Allora con i watt al massimo è più chiara la modulazione, bella, bella piena, l'altra un peluzzino, ti toglie un peluzzino di acuti. Ah e vabbè, comunque accettabile, là, sia un passaggio dell'altro. Assolutamente, tutti e due e cinque, però quando sei attaccato forse è più naturale, conoscendoti di persona. Non sono attaccato. No, non ce l'ho attaccato, perché qua te lo rifaccio in diretta, così sono i watt bassi della radio e così sono i watt alti della radio, basta, non ho attaccato niente. Attaccato intanto ho aumentato la potenza, ti dà una cosa più piena, la modulazione più forte, ti alza appena appena a livello della radio. Ah, ok, quindi con i watt al massimo così, e sono poco meno di metà, vediamo un po', ecco. Allora, così invece l'ho portato a metà, il gain del microfono, a migliorato o peggiorato? No, ha stato un pochettino, ma andava bene anche prima, adesso è un po' più troppo forte secondo me. Ok, la rimetto come prima, là. No, prima era perfetta, anche adesso va bene, ma io l'avrei abbassata un pochettino, come hai fatto l'ultimo passaggio. Ok, vediamo un po' che è arrivato qua, che c'è? Luca Dal Monte, avanti. Sì, allora Massimiliano, ho scritto, prendo la Fayette Type 1-2, modificato Colt, durate regolabili, parla ascolta disattivabile, ma ho sbagliato comunque, devo modificarlo, da un trattino poi 6 bande dalla A alla F, bande laterali, prezzo 200 più spese di spedizione. Già va bene, la voglia, la voglia. Ebbene, un microfono glielo devi dare, staffa a capo alimentazione con la roba lì. No, staffa non ne ho. Vabbè, scrivilo allora. Sì, l'ho scritto, l'ho scritto. Ah, ok, va bene, va. Va bene, allora io la rimetto dove era prima, non c'è bisogno di stare con il guatta a manetta. Ah, va bene comunque, non ti preoccupare. Vediamo se c'è Claudio da Muro, sa avanti. Vabbè, questo radio diciamo che già ne ha, già spinge. E secondo me non ce la fa neanche l'alimentatore, mi è tornando dal collo, qui ci vuole un 30 ampere e questo è un 25, capito? Sì, no, ma va bene comunque, dai, così va benissimo, a voglia. Ma sì, ma quello che aveva riparato Gavino stai usando l'alimentatore? No, quello è un 20, quello è molto di meno, capito? Quello è un 20, è Ghito Bosa, gli Arusai. Sì, a me lo dico, già l'ho provato a Cerrani, ma una bestia che... Sì, ma già la conoscerà. Sì, l'ha vista anche Roberto, forse, mi pare, Sì, l'avevo visto, ma è ammazzato dalla fotografia. Che non te l'ho fatta fare dal vivo, ce l'avevo nel cofano quella là. Ah, quella che c'avevi... Sì, no, l'ho vista anche dal vivo, scusa, Massimiliano. L'hai fatta vedere in macchina, me ne sono dimenticato. L'abbiamo fatta vedere. Sì, sì, sì, però a riguardo degli alimentatori, state attenti, molte volte dicono 25 watt, 25 watt, 25 ampere massimi, continui saranno 13-14 ampere, in uso continuo. Poi quando in spunto, magari te ne può dare anche 20, però in uso continuo si siedono gli alimentatori. Dobbiamo dare potenza continua, non massima, perché quando dichiarano 25 ampere massimi, tipo nella redditata che un amplificatore è discreto e si siede, perché una cosa è la potenza continua attiva, un'altra cosa è la potenza di picco massima. Ma che? Gappa gappa. Sei arrivato Massimiliano. Come sto facendo qua con questo? Bene, alla grande. Massimiliano, poi sto guardando qua, allora ha messo il 15 maggio 2020, Magnum S9 Tuned, così che è scritto, Colt, Ciccio Catania, 400 euro. Buono, aspetta che ti approvo la tua cosa. E ti hanno detto, lui, 200 euro che è troppo. Cosa, Cla? Hanno detto a quella radio, 200 euro è troppo. Esagerato. Ma lì l'ha impiccato, ma come si fa, gatto, ma come si fa? È regalata a 200 euro c'è la radio. Ecco, tanto non è che mi si vede di Nacla, nel senso che non la trovo perché... tanto non è ferma lì, ma qualcuno se la usa, se la mette in camion, poi una staffa si costruisce da un pezzo di alluminio, capito? L'ho provato, è lui. L'ho visto, l'ho visto. Non so, se c'è qualcuno, canta giù bagata, vabbè, poi l'ho un po' anche pulita, che fa già schifo, la proprio binghinosa. E la giunta che me l'hai mandata. Poi Luca, se tu anziché scrivere 200 scrivi 195, fa diverso effetto, la gente non dice nulla. Se scrivi 200 euro per 5 euro di differenza è truffo. No, mi interessa, come quello che vende lo sfumato 1,99 per dire, no? 1,90, promette la 2 euro, ma la 2 euro lo compra. Va, per carità. Ma ce n'è un po' di gente che ragiona con me, lo sto scherzando, mi è capitato anche a me. Se tu scrivi 200 euro al truppo, se scrivi 195 o 198 lo prendo. Cosa vuoi ti dica? Cosa vuoi ti dica? Guarda, sto vedendo qua questo, vendesi Tsunami, 1000, 5 finali, 24 volte, bene Miccio, 71 un amplificatore. Ho visto quelli grossi del camion da 1000 watt, anche 800, 900 euro te li fanno pagare. Non ce li spenderei mai, poi vabbè uno, se vuole uscire potente esce senza problemi, ma non ce li spenderei mai, va. Vabbè, comunque niente, io adesso vediamo se qualcuno, non ripeto, non è che va giù Bressa di Vindillo, io l'ho messo, se è scaldarlo bene, recuperarmi i soldi che ho speso. Certo, siamo arrivati. Ok, vediamo un pochettino chi è rimasto, se c'è qualcuno che vuole entrare. Prima di tutto facciamo parlare a Claudio Lamuro, che è un po' in parcheggio. Avanti a te Claudio. Ehi, ciao Claudio, ben sentito, saluto a tutti in famiglia. Dai, buon proseguo, vai Claudio. No, volevo sapere, prima di chiudere, se questo qua segnale è uguale all'altro, perché questo è l'altra radio. Se è uguale il segnale, perché se non è uguale vuol dire che questa c'ha più watt. Claudio, e allora i watt sono uguali, dai. Va bene, va bene. Avanti Massimiliano. Ehi, a posizione. No, volevo fare una domanda a Luca. Luca, ma tu questa radio, disattivando l'eco, l'hai provata in FM, in banda laterale? Sì che funziona Massimiliano, sì, l'ho provata. Sei sicuro? L'hai provata? Allora, la radio sono modificata, quello lì non l'ho manco toccato, così mi ha detto lui. Però non l'ho manco toccato le bande e tutte queste cose qua. L'ho anche usato, sì sì. Poi vabbè, no, faccio una prova, non mi costa niente. In FM funziona, capito? Stavo leggendo qua, questo qua sta vendendo l'8001, è un lineale da 5 finali, ancora virgine, 1100 euro, ma cioè, cazzo, un baracchino, un lineale 1100 euro, ma che è macco? No, non è macco, non è macco lui. Io conosco la persona che è, quel lineale è un autocostruito, un 5 finale da 900 watt, il baracchino lo sta vendendo a 300, e quindi il prezzo è quello. Già lo sai. Cioè, per un amplificatore ne vuole 200. Ma uno? Per l'amplificatore ne vuole 800. Beh, secondo te quanto costa l'amplificatore? Ma hai fatto un giro a cosa costano lui? Cazzo, paghi un B300, 200 euro. Guarda, se trovo le 747, però quello CTE, quello lì voglio trovare. Oh, interrompo un attimino, dai, io devo andare via, dai, ci sentiamo, ciao Luca, ciao Massimiliano, ciao Claudio e tutti gli amici, dai, buon proseguo, io devo far cosa, ciao ciao. Ciao Robè, ci sentiamo, là, ciao ciao, vai qua. Ciao ciao Robè, alle prossime, dai, ci sentiamo, stammi bene, ok. Lu, così mi, c'è un B300 costa 220 euro. Capito? Se poi vai a toccare quelli dell'RM Italy, sono il per dire, l'803 o l'805 mi pare, costa quasi 400 euro lui. Vabbè, vabbè, che mi interessa, poi magari forse perché non ho, magari gente che viaggia in camion, magari li spende questi soldi, se lo vuole mettere potente e li spende, io che magari non sono uno che viaggia, ma che non lo metto, mi interessa, giusto così, ma per me sono troppi soldi alla fine, ognuno ci può spendere anche 10.000 euro. Walter, che amplificatore ha da 3 kW, così è? Da 3 kW e aggiungi ne altre 3. Cazzo, 6 kW. 6 kW. Minchia. Comunque, questi autocostruiti così sono fatti da quell'ingegnere di Siracusa, quelli Carlo Onda Radio. Tu vai su Facebook, cerca Carlo Onda Radio e vedi cosa fa questo qua. E più o meno viaggiano a 1 euro a watt. E un 805 costa 600 euro, non costa 400. I prezzi vanno molto su queste cose di lineari, radio, la radio modificata, adesso tu vai a comprarla sempre per la cifra, dalle 200 alle 300, alle 500, alle 600, dipende che tipo di radio è. Oh, Massimiliano, per far funzionare quello a 24, senza quel barragione là, no? Già mai capito. L'alimentatore 24, quello grande là, quello che ho provato io, non ci sono degli alimentatori a 24 piccolini in vendita con l'amplificatore? Ci potrebbero essere, io non ho mai visti, però se ci sono te li fate in baga un bel, capito? Se no tu prendi come ce l'ha Luca, come quello che ha comprato Luca da 50 ampere, quelli, per farti capire, come quello che tu hai regalato a me da 30 ampere, quello tutto in alluminio, tu ne prendi due da 50 di quelli lì e li accoppi, capito? Li accoppi e c'hai il 24 e il 12. Ah, ecco, sì, messo dentro un case e va bene, sì. Kappa. Io, vabbè, lascia perdere che io la scatola l'ho fatta troppo grande, perché tu prendi due alimentatori, quello lì, adesso quello lì, quando ho un po' di tempo, sai che cosa faccio? La prendo e la faccio piccola piccola con la scatola, capito? La faccio giusta, giusta, e faccio un alimentatore piccolino, capito? Lo faccio piccolino, intanto ci stiano solo 9 metri e basta. Io l'ho fatta così per non tagliare le tavole, quando assillavo il brigante, però si può fare anche piccolino, capito? Una volta che tu ce l'hai accoppiati quelli lì, hai 100 ampere a 12 e 50 ampere a 24. Cazzo, una cannonata così, eh? Sì, è un bel grande quello. È un bel grande, bisognerebbe farlo un po' più piccolo, dai. Mi pare, tanto domani è fresca, mi pare domani, mi rubiglio, me lo voto. Fallo più piccolo, così lo riproviamo. È positivo, non c'è problema. Grappa, grappa. Il mezzo intenzionato ero a prendere l'805, ma mi sono sbagliato di poco. E il 505 che costa quella cifra? 805 costa 600 euro, 620-630. Claro, però se tu vedi, allora io ti faccio un esempio, se tu vedi anche su eBay, su dei bar di eBay, più o meno in base ai watt è la cifra, E vedi l'805, 600 watt e costa 600 euro, per dire, anzi qualcosina in più costa. C'è quello che lo vende 580, c'è quello che vende 600, c'è quello che lo vende 640, ma all'incirca sei lì, più o meno sei un euro a watt. Già lo so, già lo so, che è quella tre ventole che hai tu l'805. Eia. Mentre invece quell'altro che ho provato io, quello è due ventole, quello cos'è? No, quello c'ha una ventola solo, ma quello lì era la Winner, quello in poche parole lo faceva la Bias, capito? Eia, gappa. Eia. E invece quello che è quello a due ventole, giusto, a due, quello che mi ha fatto Stefano. Quello invece cos'è? Quello era, cos'è? 405 mi pare. 405, sì. Che è praticamente come il B300, dava le stesse watt del B300 che c'ho io. Invece ce n'è un altro, per farti capire, qua non ha la ventola, ok, però è il modello nuovo, ha 4 finali a MOSFET e a 12 volt. E da 300 watt c'ha 6 marce e costa 210 euro portato a casa. E che è quello che ha comprato Gianni? È positivo, per farti capire. E da 300 watt. E vabbè, ma per quello mi tengo il B300, Massimiliano. Se stiamo parlando di 20-30 watt in più non mi frega niente. Il B300 c'ho io in sesta, che non lo metto mai perché mi porta via un po' di radio, da intorno a 240 watt, quindi alla fin fine. No, claro, conviene. Allora, se tu c'è quello, lasciati quello. Allora, se ci devi buttare qualche soldino, che vuol investire qualche soldino, investilo per avere una cosa di 300 watt in più, 200 watt in più, se no non conviene. E per quello sto dicendo, ma 60 watt in più mi tengo vicio. Capito? Che io con 4 watt, con queste vitace, a watt metro professionale, buono, era intorno ai 240-250 watt, quindi va bene. Perché nuovo funziona benissimo. In sesta però, in quinta ne da 220-210, quindi ma 100 watt in più cosa ne vai? Vai a spendere un sacco di soldi. Infatti per quello te lo sto dicendo, capito? Vai Luca. Mentre invece quello che è tuo, quello 24 che ho provato io, quello spinge più del 300. Allora, quello nero che hai provato tu è un Winner 1000, capito? E questo qua dà qualche picco in più, là, per farti capire. Però questo è già una cosa un po' più diversa, capito? Questo c'ha il preamplificatore di antenna inserito, se lo vuoi inserire, se lo vuoi disinserire, hai capito? Questo diciamo che rimane un pochino più completo, quello là è più da battaglia. Quello che ho provato io, vabbè, il preamplificatore di antenna ce l'ho anche io, c'ho il B300P. Ce l'ha per il preamplificatore d'antenna, funziona benissimo, lo puoi inserire e disinserire, anche se basta che sia alimentato, lo puoi inserire e disinserire. No, ma voglio capire, quello che ho provato io a 24, quello quanti watt dà? 300, 400? No, io ce ne guardo 600. 600? Quello era 600 in 7 marce. No, ma quello a 3 marce solo, o segna? Quello ne ha 6 di marce, non ne ha 3, capito? Quello nero che ho provato io a due ventole. Una ne ha di ventola, ne ha una centrale. Quella che ti ho dato insieme all'alimentatore, quello lì. Quello da 600 watt. Cavolo di minchia. Vedi, per dire, quello è piccolino, lo vedi? Però c'ha quattro finali MRF 422 dentro. È stato bomba. Dicevo la pompa. Ma io non ho detto su azienda a chi deve... Io te lo dimostro anche, era DJZ. No, ma io già me ne sono accorto perché praticamente in prima marcia già col picco passava i 200 watt. Io mi ricordo che insomma che ci avevi lati 230 e in prima marcia già non te lo teneva più. Infatti te lo sto dicendo, per quello adesso sto facendo memoria. Infatti l'avevo staccato lati 230, perché se no me lo crepavo, l'avevo messo diretto, ma... La lì l'ha già attaccato diretto, vero Antonio, vendi bimbomba, aiuta io, attacca quel lineare che c'hai, l'ha attaccato, il più vicino di te chi è? Luca, la te lo, cioè fa vedere con Luca, vedi, dai, capito? Ha giusticiato, mi ha detto ti annienta completamente Antonio. Ma poi il bello che quello fa una bella radio stesso, capito? Non satura, anche se tu lo metti in seta, roba così, non satura la radio. È una bella bestiolina, già me lo ricordo. Flipper, hai finito di stare in ascolto e fare le orecchie di porco? Sono PC Class, facciamo cosa. Ho visto il prezzo di quel microfono, cioè è uguale, preciso, identico, 16 euro, Massimiliano. Non c'è la scritta a Kenwood, c'è scritto MC43, in Cina 16 euro, e l'MC43 con la scritta a Kenwood costa 50 euro. Vabbè, però bisogna vedere se l'interno hanno la stessa capsula e tutto quanto. Cazzo, io che 16 euro meglio un Midland. Massimilia, è uguale, c'è scritto, guarda, te lo sto mandando, guardatelo, cazzo, è uguale, preciso identico. Questo è nero, così è? Nero, lo fanno nero e grigio, non cambia niente. Quello che c'ho io è grigio, ma l'altro che avevo era nero, non c'amba nuda, perché ne hanno fatto due colori, hanno fatto, capito? Ormai da me, fate un conto, allora prima costava 18,37 euro, l'hanno abbassato a 16,54 euro, cioè, la madonna, ragazzi, impressionante come, cioè se tu le togli quella che ti buschi, una targhettina, Kenwood, ne stacchi quello MC43S, cioè è preciso. No, ma il bello è che nell'originale c'è scritto MC43, solo che poi c'è anche la scritta Kenwood, ma... Io ne ho avuto certi dove la scritta a Kenwood non c'era, c'era solo scritto MC43, è uguale, preciso 10, per tutte le radio Kenwood, è preciso, poi è a condensatore la capsula, capito, non puoi sbagliare, ma anche non essendo la capsula originale eccetera, ma c'è il microfono originale praticamente, della sua, è uguale all'MC43, cioè sempre un MC43. Sì, uguale. Beh, voglio fare una domanda a quello che sta frugando a internet, ma questo dov'è? Wish? No. Posto, va bene. E io vi burrerà un mese a arrivare a cosa? No, quanto ci ha messo a arrivarti il caricabatterie di quel portatile? A volte dipende, può arrivare in 20 giorni, a volte pure un mese e mezzo, dipende, claro. A volte anche in 15 giorni l'ho avuto. E allora la fine, ma ci vediamo cosa... Gappa gappa. Vabbè, ma se te lo devi prendere uno, anche se ci mette 20 giorni, un mese, lo sai bene a tutti. Un miglio è fa 16 euro, può fare. 16 euro, quanto c'è il trasporto, lui? No, mi sembra era compreso, aspetta, ci riguardo un attimo, che ce l'ho collegato al computer, il telefono. Mi sa che... Lascio, vediamo. Oh, quello là funziona perfettamente, Massimiliano, va bene, non c'è problema. E domani mattina c'è appuntamento alle 8:30. Positivo. Ma perché ti serve questo microfono? No, io dell'altra radio che ho comprato, del 140, quello che ha mandato a fare gli allineamenti, i controlli, eccetera. No, non ha microfono, capito? Infatti ancora ero la gita a Luca, cazzo, tutti gli che vendono le radio le vendono sempre senza microfono, anche i microfoni ci le vendono a parti. Giustamente ti vendono la radio 250 da 280 euro e il microfono te lo fanno pagare 340 da 50 euro e arrivi a quel totto della radio, capito? Chiedilo a questo qua che ti sta allineando la radio se ne ha qualche duro da mandartelo, e così se ne ha qualche duro te lo fai dare, no? O no? Non lo so. Adesso infatti poi quando ci sentiamo glielo chiedo, dimmi lui. No, spedizione gratuita. Addirittura. Oh. Gaffa. 16 euro una cazzata, ti sto dicendo che prendi una cosa mille con 16 euro, prendi nulla. Cioè, ti sto dicendo che Luca ha preso il caricabatterie del Voxum, che originale, quanto costava lui originale? Beh, 60 euro, oggi ho pagato 1,90 euro, originale Voxum, con tanto di nome sul caricabatterie. Figurati, una differenza. Ma che sono allucinati, non ci vediamo. Poi dico, cazzo, boh, le cinesi sanno vendere, sanno vendere, sanno fare. Non è possibile comprare in Italia roba del genere, capito? Vabbè, c'è più commercio. Ormai i cinesi vendono tutto, mio cra. Per farti capire, quegli alimentatori che ha preso Luca, quello da 50 ampere, c'era anche Muraglia, preciso identico, capito? Mi pare che costa 22 euro, 23 euro da 50 ampere. Bisogna stare attenti, però Massimiliano. E perché quelli che compri dai Bida non li arrivi, non sono cinesi? Sì, ho capito, però bisogna stare attenti, io sto usando quello in questo momento, con questa radio, anche col massimo dei watt, non rivazzi nulla. Però bisogna stare attenti, perché di questi modelli qua ne fanno un modello che è uguale, specificato, è identico, però io l'avevo comprato tempo fa e volevo guardarmi a manettone, capito? A manettone, mentre poi ho trovato questo compratore, quello di San Luca, se l'avevo comprato io. E un altro compratore, l'ha detto provano perché l'altro mi faceva rientro e dava questi problemi qua. Allora mi ha detto glielo mando io, glielo controllo io. Infatti dal giorno sto comprando questi alimentatori solo da questo tipo qua. Allora io ne avevo preso lui di questi qua, ne avevo comprato 6, ok, li avevo presi da Napoli. Li avevo presi per farmi l'alimentatore 24-12. Li ho presi quando io gli ho detto al tipo di provarli, se funzionavano tutti. Il tipo mi ha scritto, in ognuno mi ha scritto ok, ok, ok, ok. Arrivano qua, li attacco il filo, lo provo, due non funzionavano. Io li ho restituiti e me li ha rimandati dietro. Però sulla targhetta, aspetta, ci deve essere scritto... Mi lamento se sono 500 o 600 milliampere o milliwatt, una cosa del genere. Io questo che ho è da 50 ampere, gli ho regolato il trimmer a 13.